Le piacevoli notti, libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Terza favola dell'undicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Diana, senza essere stimolata da altrui, alla sua favola diede principio, così dicendo: Favola terza. Don Pomporio Monaco viene accusato all'abate del suo disordinato mangiare, ed egli, con una favola, mordendo l'abate, dalla querela si salva. Io vorrei questa sera essere digiuna e non avere il carico di raccontarvi favole, perché in verità non me ne sovviene pur una che dilettevole sia. Ma ciò che io non disturbi il principiato ordine, ne dirò una, la quale, ancor che piacevole non sia, non di meno vi sarà cara. Trovavasi nei tempi passati in un famoso monasterio un monaco di età matura, ma notabile e gran mangiatore. Egli s'avantava di mangiare in un sol pasto un quarto di grosso vitello e un paio di capponi. Aveva costui, che Don Pomporio si chiamava, un piatello al quale aveva posto nome oratorio di devozione, e a misura teneva 7 gran scutelle di minestra. E oltre il companatico, ogni giorno, sia a desinare come a cena, la empiva di broda o di qualche altra sorte di minestra, non lasciando neppur una minuzia andare a male. E tutte le reliquie che gli altri monaci sopravanzavano, o poche o molte che ci fossero, erano all'oratorio appresentate, ed egli nella divozione le poneva. E quantunque lorde e sozze fussero, perciò che ogni cosa faceva al proposito del suo oratorio, niente di meno tutte, come affamato lupo, le divorava. Vedendo gli altri monaci la sfrenata gola di costui e la grande ingordigia, e maravigliandosi forte della tanta poltroneria sua, quando con buone e quando con rie parole lo riprendevano. Ma quanto più li monaci lo correggevano, tanto maggiormente li cresceva l'animo di aggiungere la broda al suo oratorio, non curandosi di riprensione alcuna. Aveva il porcone una virtù in sé, che mai si corocciava, e ciascuno contra di lui poteva dir ciò che gli pareva che non l'aveva male. Avvenne ch'un giorno fu al padre abate accusato, il quale, udita la querela, fecelo a sé venire e dissegli: Don Pomporio, mi è sta fatta una gran coscienza de fatti vostri, la quale, oltre che contiene gran vergogna, genera scandolo a tutto il monasterio. Rispose Don Pomporio: E che opposizione fanno contra me questi accusatori? Io sono il più mansueto e il più pacifico monaco che nel vostro monasterio sia, né mai molesto né do in pace ad alcuno, ma vivo con tranquillità e quiete, e se da altrui sono ingiuriato, sofferisco pazientemente, né per questo mi scandoleggio. Disse l'abate: Parvi questo lodevole atto? Voi avete un piatello non da religioso, ma da fettente porco, nel quale, oltre l'ordinario vostro, ponete tutte le reliquie che sopravanzano agli altri, e senza rispetto e senza vergogna, non come umana creatura, né come religioso, ma come affamata bestia, quelle divorate. Non vi fate coscienza, grossolone uomo da poco, che tutti vi tengono il suo buffone. Rispose Don Pomporio: E come, padre abate, doverei vergognarmi? Dove ora si trova nel mondo la vergogna? E chi la teme? Ma se voi mi date licenza ch'io possa sicuramente parlare, io vi risponderò. Se no, io me ne passerò sotto umidienza e terrò silenzio. Disse l'abate: Dite quanto vi piace, che siamo contenti che parliate. Assicurato, Don Pomporio allora disse: padre abbate, noi siamo alla condizione di quelli che portano le zerle dietro le spalle, perciò che ognun vede quella del compagno, ma non vede la sua. Se ancor io mangiassi di cibi sontuosi, come i gran signori fanno, certo io mangerei assai meno di quello che io fo. Ma mangiando cibi grossi, che agevolmente si digeriscono, non mi par vergogna il molto mangiare. L'abbate, che con buoni capponi, fasciani, francolini e altre sorti di uccelli col priore e altri amici sontuosamente viveva, s'avide del parlare che aveva fatto il monaco e, temendo che apertamente non lo scoprisse, l'assolse, imponendogli che a suo bel grado mangiasse e chi non sapeva ben mangiare e bere, il danno fosse suo. Partitosi don Pomporio dall'abate assolto, di indi raddoppiò la pietanza, accrescendo al santo oratorio del buon piattello la divozione. E perché don Pomporio dai monaci era di tal bestialità gravemente ripreso, montò sopra il pergamo del refettorio e con un bel modo gli raccontò questa breve favola. Si trovarono già gran tempo fa il vento, l'acqua e la vergogna ad una osteria e mangiarono insieme. E ragionando di più cose, disse la vergogna al vento e all'acqua: quando, fratello e sorella, ci troveremo insieme sì pacificamente come ora ci troviamo? Rispose l'acqua: certo, la vergogna dice il vero, perciò che chissà quando mai più verrà l'occasione di ritrovarsi insieme. Ma se io ti volesse trovare, o fratello, dov'è la tua abitazione? Disse il vento: sorelle mie, ogni volta che trovarmi volete per godere e stare insieme, verrete per mezzo di qualche uscio aperto o di qualche via angusta, che subito mi troverete, perciò che ivi è la stanza mia. E tu, acqua, dove abiti? Io sto, disse l'acqua, nei paludi più basse tra quelle cannelluzze, e sia secco quanto si voglia la terra, sempre ivi mi troverete. Ma tu, vergogna, dov'è la stanza tua? Io veramente, disse la vergogna, non so, perciò che io sono poverella e da tutti scacciata. Se voi verrete tra persone grandi a cercarmi, non mi troverete, perché veder non mi vogliono, e di me si fanno beffe. Se verrete tra la gente bassa, si sfacciati sono, che poco curansi di me. Se verrete tra le donne, si maritate come vedove e donzelle, parimenti non mi troverete, perciò che mi fuggono come mostruosa cosa. Se verrete tra religiosi, sarò da loro lontana, perciò che con bastoni e con gallozze mi scacciano, di modo che io non ho finora abitazione dove mi possa fermare. E se io con voi non m'accompagno, mi veggo d'ogni speranza priva. Il che il vento e l'acqua sentendo si mossero a compassione e in sua compagnia l'accettorono. Non stettero molto insieme che si levò una grandissima fortuna e la meschinella, travagliata dal vento e dall'acqua, non avendo onde posarsi, si sommerse nel mare. Laonde io la cercai in molti luoghi ed ora la cerco, né mai la potei ritrovare, né anco persona che dirmi sapesse ov'ella fosse. Onde, non la trovando, nulla o poco di lei mi curo, e però io farò a modo mio e voi al vostro, perciò che oggi nel mondo non si trova la vergogna. Fine della storia. La favola da Diana recitata, quantunque da lei fosse biasmata, non di meno tutti non poco la commendorono, ma ella, che non era ambiziosa né molto si curava di queste lodi, il suo enimma in tal guisa propose: una gran donna è bella fra le belle, regna nel mondo fra l'umane genti, né la più strana v'è sotto le stelle. Aggrada l'uom, ma in sé vari accidenti. Il corpo inferma, ogni virtude svelle. Il senno strugge tutti i sentimenti. Miser chi in le sue man cade per sorte, che il sangue asciugge e genera la morte. L'enimma fu, se non da tutti, almeno dalla maggior parte inteso, che quella bella donna e strana era la gola, la quale inferma il corpo di colui che troppo mangia ed estirpa ogni virtù, ed anche genera la morte, perché maggiore è il numero di quelli che sono stati uccisi dalla gola che dal coltello. Fine della terza favola dell'undicesima notte.